quello il problema. Avanti Carlo. Sì Giulio, io sì, ho sentito qualcosa sotto mentre parlavi, ma eri sopra tu, ho continuato a sentirti comunque, quindi ti fa un po' il solletico, magari uscendo verso fuori, verso Porto Torres, diciamo è più ampio il disturbo, qua invece arrivi bene da me Giulio, vai pure. Ok, sì, anche a te adesso stavo mettendo la portante, ma tu l'hai schiacciato abbondantemente. Ma se io voglio lo schiaccio, tu lo sai benissimo che ho le possibilità, ce le ho, per cui, ma non sono miserabile come lui, lui è un miserabile, per cui va bene così, non c'è problema. Avanti Claudio. Mamma, c'è qualcuno che sta rompendo. O è propagazione da fuori o è... Si è sollevato un po' il cuoremme adesso e sento molta gente da fuori che si accavallano, uno parla sopra l'altro, ma è così. Tu le senti, Franca? No, come che cosa non ne ho, cuoremme non ne ho, proprio sono a zero, è di cuoremme. La stiamo mettendo anche a Carlo, qui è arrivata, però lo ha schiacciato abbondantemente Carlo, per cui non c'è problema, riprendi Carlo. Sì, adesso anche mentre parlava Franco, visto che mettevano, si sentiva il disturbo e passava comunque anche Franco, perché io l'ho sentito dall'inizio alla fine, quindi deve essere anche molto, molto basso l'amico che disturba, vabbè, e ogni tanto ci sta, dai. Oh, un attimo, oh, scusate, ma io devo mollare, sono entrato per salutarvi più, per dirgli a Claudio che era una bella radio, aveva, perché dovevamo farne troppo. Niente, comunque dai, vi saluto, ciao Giulio, ciao Carlo, ciao a te Claudio, ci sentiamo alle prossime, perché devo uscire urgentemente. Bene Franco, alle prossime. Ok, ciao Franco, ci sentiamo alle prossime. Adesso stavo mettendo la portante anche a te o Claudio, non so se mi stai ascoltando, forse adesso in questo momento non c'era per me, ma stavo mettendo la portante anche a te Claudio. Ma non lo so se ce la fanno a passare. Vedi adesso senz'altro si è aumentato un po' il segnale. Sì Claudio, il segnale è aumentato, ma andavi bene anche come prima, passavi lo stesso, ma non so, anche a me adesso mi sembra di sentire delle voci in sottofondo, forse propagazione o magari sull'FM, può darsi che ci sia qualcosa. Giulio ti stava dicendo che la radio come la tua, CRT 3009, ce l'ha anche lui, Giulio l'ha presa nuova anche lui. No, è 6009 questo, 6009. Però avevo capito male io, 6009 è l'ultimo mi sa di quella serie. Sì, 6009.7, è proprio l'ultimo. Il tuo è 3009 o 6009? 6009. Sì, anche il mio è così. Allora anche quello di Giulio è così, dai, avevo capito male io. Oh, poi ti mando la foto Giulio. Ok, io ho anche il libretto di istruzione in italiano, Claudio. E dove l'hai trovato? Me l'hanno dato, mi hanno dato un sito, io l'ho scaricato e me l'ho messo su carta. Comunque te lo posso anche passare il sito e così poi te lo scarichi dal computer direttamente. Sì, ti ringrazio, mi interessa davvero, perché così a occhio a scoprire tutte le funzioni è un problema. Anche se non è direttamente quello, però è uguale, non c'è problema, è appartenente ad un'altra serie, però è quello, è uguale al 100%, te lo posso assicurare. Ho capito, forse è quello Anizzone 555. Esatto, proprio quello, però è uguale, identico, non c'è problema. Sì, infatti come comandi è così. Questo in più, la serie nuova, quello che ho io, in più, gli hanno fatto il nuovo. E nella V6, V5 non c'era, non ce l'avevano. E poi hanno aperto più feritoi per circolare un po' di aria dentro. Ok, sì. Vabbè, te mando il sito comunque, poi te lo scarichi o Claudio, va bene? sì, grazie. Mandami pure il link che me lo scarico. Ok, mi prendi Carlo? E ce ne sono diverse di queste radio 6009 CRT, evidentemente diciamo vanno bene perché hanno un sacco di funzioni, banda laterale compresa, watt regolabili, quindi fanno benissimo, un po' più o meno come quella che ho io, anche se completamente diversa, però le caratteristiche almeno al 90% sono quelle. Avanti Antonello, ciao. Sì, buonasera a tutti, sono entrato, ero al telefono con un amico. Avanti Carlo, sono tutti quelli che sono entrati. Antonio è ben rientrato, c'è Giulio, c'è Claudio da Porto Torres, è entrato Franco un attimo da Sorso, ma chiuso, poi ci sono io, dovrebbe esserci Claudio che prima era con noi, poi aveva caldo, è uscito a fumare, a bersi qualcosa di fresco, magari già in ascolto, dai. Avanti Claudio Porto Torres. Sì, per quanto riguarda i modelli, il costruttore è uno solo. Costruttore è uno e lo fa in sei salse diverse, con sei nomi diversi, però l'apparecchio è sempre quello. È riuscito, un apparecchio molto ben riuscito, come il 9009 che è molto meglio ancora, che però non l'ho preso perché è più piccolo, c'è il display molto più piccolo e io non è che ci vedo molto bene qui. Questo è molto più grande, molto più visibile il display, si vede molto meno. Comunque il costruttore che fa è sempre lo stesso, cambiano i nomi, però è sempre uguale, così è giusto. Esatto, più o meno come fanno con le macchine, che magari vendono un motore Renault, lo usa la Renault, poi lo dà anche alla Dacia, lo dà anche alla Ford, capito? Il motore è quello. Sì, anche il mio ha un display abbastanza luminoso, addirittura puoi scegliere sei colori diversi, capito? Puoi impostare il beep di fine chiamata, anche se è un po' scalcinatino, io non l'ho messo perché non mi piace, preferisco non averlo a quel punto. Però più o meno sono tutti con le stesse caratteristiche, con diverse marche escono così. Bene, avanti Giulio. Sì, stiamo rispondendo a Claudio. Sì, ce ne sono una quindicina, con logo diverso, però è sempre uguale come apparecchiatura, o Claudio, tutti uguali, una quindicina in tutto. Sì, è così Giulio, è così. Avanti Antonio. Io ho la vittoria. 555, avevo notato di un Kawasaki, usciva benissimo, c'era l'Ecco, di tutto c'era di più, un sacco di funzioni, poteva andare in 10 metri, poteva avere un sacco di roba, avevo venduto 150 euro, avevo venduto io, era Natalino, quindi figurati, adesso già ne ho abbastanza malati. Se avevo avuto anche quello guai, adesso mi basta quello che c'ho, basta e avanza. Se mi metto la casa di apparecchi, cosa faccio? Lo campo a baracchio, campo qui tengo quello che c'è, ogni tanto faccio girare uno all'altro. Avanti Carlo. Sì, adesso Antone, tu, giusto per curiosità, con quanti stai uscendo? Sono 15 tonditori. Dopo 15 tonditori. Va benissimo, non metterne di più perché sennò alla fine siamo troppo vicini e ti sento saturo, così va bene. Caspita, 9 a produttore, Antone. Chiaro credo, non sto usando un FM500, sto usando un Kimono, sto usando un 140. Allora voglio dire pompa questa, sono di 15 di portata fissa e quasi 50 di picco. Ah, ecco. E io oggi sto usando quello, se no di solito anch'io c'ho il tappa. E così, è così. Ascolta Antonello, ma è... tu c'hai un microfono che si può adattare per bene, che un preamplificato che va di bene per questo. Un mezza volta ci puoi mettere, oppure un MB4, due sono le cose. Uno dei due ci può mettere, a moto non ci avete un microfono per far male, se riesce a buscartelo è buono, ma se vuoi ti piace il microfono da tavolo, io ci sono quelli, il Salerta e l'MB4. No, un palmare, un palmare. Ah, palmare, boh, io ho usato l'M93 e andava benissimo nel Condes 4000 che ho io. Faccio quello l'avevo dato insieme a Saturnecco e mi sono preso l'M95, l'ho pagato 40 euro con la Fusano. Perlomeno funziona bene, a meno che non ti buschi un M300 se riesci a trovarlo, oppure un DM1000. È una parola trovare quelli, già mi hai detto nulla, sì, è difficilissimo. Io c'ho dentro il cassetto c'ho un 93 e una Static, quello, la Static grande, quello che c'ha la griglia rotonda grande, che non va bene per te, l'avevo provata anche sul K, non va bene, non si adatta, no. Qui non lo so, è da provare. È Giulio, tu hai provato qualcosa? No, io ce l'avrei, ma lo lascio così, col suo normale, va bene così. Adesso dovreste andare, mi dovreste sentire anche meglio. Guarda che ti ho inviato quell'affare, apri il telefono dopo e guardalo. Sì, grazie Giulia, poi lo guardo ma lo scarico, senz'altro. E va bene, e devo fare un attimino di bianco che mi hanno chiamato di là, poi riprendo subito, avanti cara. Okay, non ti preoccupare. Giulio, hai visto, ti avevo mandato il video, la radio Saturnecco aggiustata, funziona perfettamente. Gianni mi aveva dato anche il microfono suo originale, e quindi adesso è a posto, capito, ho fatto quel lavoro lì dall'amico Albino di Borore, capito, l'ho pure ritirato, adesso uno di questi giorni la provo, lui l'ha provata nel suo laboratorio, andava bene, si sentiva perfettamente, usciva di watt, reggeva tutti i watt, gli ha cambiato i finali praticamente, tutte e due in serie, capito, comunque adesso quando ho tempo la sistemo meglio, capito, perché devo trovare anche un'ubicazione. Ok, sono Claudio, Marco, mi sto confondendo il nome adesso, sono Carlo, volevo dire, sì, lo so, ma sono contento per te, ma io non avevo dubbi, guarda, non avevo dubbi, il solo fatto che tu mi avevi detto, la persona che te l'ha consigliato, io non avevo dubbi assolutamente, perché quella persona è una persona seria, non ti avrebbe dato l'input di mandarlo da lui, no? Carlo, ne avevamo parlato anche la volta scorsa, no? Non ci sono dubbi, io non avevo alcun dubbio, se fosse stata un'altra persona avrei potuto avere anche qualche dubbio, ma la persona che te l'ha consigliata, io la conosco per essere una grandissima persona, una persona seria, dunque non è un pagliaccio in poche parole, e tu hai fatto quello che ti ha detto e hai fatto benissimo, Carlo. Così adesso c'ho due alternative, dai, così mi diverto un pochettino. Hai avuto Carlo il negozio che ti ha mandato? Se te l'ha consigliato quella persona, vacci tranquillo, che non ci sono problemi, se no non ti avrebbe detto portare da lui, io te l'ho subito detto dal primo momento, per cui non, che dubbi non ne avevo nella maniera più assoluta, perché io ripeto non lo conosco questo tecnico, però chi te l'ha consigliato evidentemente lo conosce bene, e siccome so che quella persona è una persona seria, non è un pagliaccio, a differenza di qualche altro magari, e allora hai fatto benissimo a dargli retta e a fatto fare da lui, e così è stato, no? Va bene così, riprendi ancora. Buonasera, sono rientrato. Ciao Claudio. Ciao Claudio, cazzo. stavo cercando quel negozietto. Sì, beh, pane buono quella signorina si è presa, eh. Allora. Se non questo mette bene la faccia, la gente pensa a vento. Tutte e tu le trovi. Vabbè, ce l'ho uguale io quel coso, quel commutatore. C'è una cosa allucinante. Chiedi prima a me di comprare. Ne ho due dentro il cassetto. Quelle lì, le Genero 101. Ne ho due. Ok, che usavo prima di collegare la T250, adesso ho la T250 e quindi uso la commutazione della T250 e quelli li ho tolti, te l'avrei dato io, intanto non li uso, te l'avrei dato, come facciamo insomma sempre, capito? Per rispondere a Giulio, se qualcuno ogni tanto dà retta, forse si poteva fare molto di più, come la canzone. Riprendi Giulio. Claudio, ma io glielo ho detto a Carlo al primissimo momento, perché mi ha detto, mi ha consigliato il tizio, e il tizio è una persona seria e dunque dagli retta, perché così evidentemente se no non avrebbe fatto certamente brutta figura, ha consigliato una persona non capace nel suo lavoro, e io non avevo dubbi da quel preciso istante, ha detto te l'ha consigliato, fallo subito perché è una persona seria che ti consiglia bene, non ci sono dubbi. Ma ne abbiamo parlato tempo addietro, ne abbiamo parlato di questo fatto, ma comunque lasciamo stare adesso, non è che vogliamo allungare di più il discorso. Avanti Carlo. Giusto nominare la persona che ha fatto questo lavoro, insomma, che ha sistemato, perché è veramente capace. Io l'ho visto, sapeva dove mettere le mani, a qualche strumento, insomma, laboratorio fatto da sé, ma ha di tutto di più. Ha uno scaffale tutto pieno di radio. E, insomma, è persona capace, quindi da subito ti ha detto che il problema era risolvibilissimo, cambiando quei due pezzi, tutti e due insieme, però quelli che diceva lui, capito, e così è stato, capito, e quindi questo conferma, infatti lui me l'ha detto, se quando avete problemi anche dalle parti di Sassari venite, tanto non è lontanissimo, è tutto su per strada, e quindi fargli un po' di pubblicità, penso che non faccia male. Beh, non di certo, va bene così, buona sapersi, perché può servire anche a qualcun altro, potrebbe servire anche a me direttamente, perché no, certo. Uno ce l'avrei io da metterci mano o Carlo, per cui però io, essere sincero, non ci ho pensato quando sei andato tu, se no non l'avevo direttamente a te e così non se ne parlava più, io magari avrei evitato di fare il viaggetto, che poi tra l'altro non è che esco molto volentieri, la verità, tu lo sai, per il motivo per cui io non esco molto volentieri. Va bene lo stesso. Chi c'era rimasto? C'è anche Claudio. Claudio, avanti, riprendi. Fai girare, c'è anche Antonello. Sì, l'ho sentito Antonello. Sì. Guarda, io almeno lo conosco 20 anni, da quando avevamo fatto il raduno a Borre. Capito? Quindi di radio me ne ha riparato qualcuna, solo quando me l'ho detto a te, non avevo il numero di telefono, quindi è dovuto intervenire Massimiliano. Però una persona capace, una persona me ne ha riparato qualcuna di radio, ed è una persona capace, non è il suo lavoro, ma comunque è uno che sa dove mettere le mani, uno che sa quello che fa, tutto qui, e quindi hai fatto bene. Ultima mossa, va bene che va bene. Ok, avanti Antonello, cambio. Ehi, a cappa. No, già, ho fatto un buon lavoro, ma ancora va bene, non ho sentito la verità, è stato meglio. Però già, penso che abbiamo fatto un buon lavoro e sta forte come quello che avevo pensato io. Quindi non c'è problema. Cappa, e poi non è neanche caro. Quindi a me ha fatto un lavoro come si dice, sincero, tranquillo, se uno sa fare qualcosa lo dice e basta. Guarda, te lo faccio e non c'è problema. Claudio, è una garanzia. Claudio, quindi mi confermi che, vabbè, lo sbaglio che non, io non lo sapevo che tu avessi di quei commutatori, non ci ho pensato, mannaggia. Comunque mi confermi che quello va bene? Ma stai scherzando, ne ho due io, quelli sono della Daiwa praticamente, li fa la Daiwa qui, non sono marcati Daiwa, sono marcati CN201, ma sono buoni, ce l'ho io, e tanto sono pesanti, sono di ferro, ben fatti, hanno la commutazione dentro, che separa e taglia anche bene, non so, io ce l'avevo, tengono anche potenza, non sono quelli della Delta G, vanno bene, e ho detto sempre, quando devi prendere qualcosa, prima di buttare via i soldi, chiamami, capito Carlo, no, te l'avrei dato, ho visto che ce l'hai, cosa devo gaffare, ce l'ho, ne ho due, te l'avrei dato volentieri, così l'avresti attaccato, capito? Io ho te ripeto quello della Chemo, della commutazione della T250, che c'è la commutazione a 4, che fa appunto di linea, correttore elettronico, commutatore d'antenna, rosmetro e vattimetro, quindi uso quello perché di linea così evito di avere cavi e cavetti in mezzo ai piedi, fa tutto lui. Bene, bene, bene, bene, bene, sì, quando vuoi, se poi ti manca qualche spezzone che lo vuoi già pronto, di 213, Carlo, ce li ho già pronti, capito? Non stare lì a staccare, fare, collegare, se ti serve qualche spezzone per le radio, me lo dici, pace e ti riprendi. Grazie, sempre gentile, Claudio. No, è che praticamente la discesa del cavo, qua dove ho collegato la radio, entra dentro il mobile e l'ho fatta entrare da un foro, giusto, però poi lo spinotto l'ho saldato una volta che il cavo era dentro, adesso per toglierlo da lì lo devo disaldare o tagliare, quindi ricollegare, è per quello che ti dicevo, ma non salire sul tetto, no, già lo metto giù qua vicino e poi faccio due spezzoni, uno va a una radio e uno all'altra, e diciamo il commutatore me lo metto vicino in maniera tale che posso agire e scegliere la radio quando voglio, capito? Tutto lì. Sì, grazie di nuovo, Claudio, terrò in considerazione queste cose che mi hai detto. Va bene, riprendi Giulio. Ok, sì, Claudio di Porto Torres, ho ricevuto, sì, è uguale, identico, confermo, uguale, identico, non cambia niente, preciso, identico. Va bene, continuiamo. Avanti, Antonio. Già va bene. Sono tutte uguali le cose. Adesso non è che mi stiamo seguendo molto. Sto guardando un attimino il telefono. Intanto mi mandano un coso. Dopo che ti mando via WhatsApp un aggeggio, così magari se vuoi aprire un panificio. Cresce pompugno è cotto. Magari, è già chiuso adesso, fino alle 7:30. Ah, così è, santo. Ciao Carlo, e chi altri ci fosse in ascolto? Ho acceso adesso che stavo mangiando, quindi non so chi ci sia. Ciao Natali, c'è Claudio, c'è Giulio, c'è Claudio anche Nevada da Porto Torres che un attimo aveva fatto di bianco, e c'è Antonello, Claudio anche da Sassari. Sassari, ho mangiato hai? Ehi. Che mi sono mangiato un cipollotto, l'ho affettato prima, non è che me l'ho messo dietro, la verità. Ha già musicato quella ventiera. C'è Claudio Nevada da Porto Torres, un saluto, ciao Claudio, non sapevo c'era anche tu, e buonasera. Ma non ti preoccupare Carlo, ma figurati, io le cose quando so con chi ha a che fare le do volentieri col cuore, no, non c'era problema. Ok, no, io ho anche il video di quando l'ha finita la radio Albino, quindi ho visto i picchi modulazione, si vede tutto con la sonda collegata, col beard, quindi stiamo parlando di strumenti seri, di strumenti professionali, che perciò non ci sono dubbi se la sonda beard segna quello segna, e no, c'è scritto, non è che puoi dire il contrario. La sonda è sonda, quando tu la metti la sonda fino a 20 watt, ti dà 20 watt, non è uno strumento di quelli da 10, io l'ho capito, però insomma costa una barca di soldi. Avanti Giulio. Canale 10, prego. Ok, non so se c'è la portante, comunque. Sì, beh certo che sì, ma è così, ma io appena ho sentito che le serviva qualcosa mi sono prodigato e subito mi sono fatto sentire da Carlo, poi la storia è andata come è andata, è un altro discorso quello, però io ci tenevo proprio che lui riuscisse a farlo riparare, ma io ripeto ancora una volta, non avevo dubbi, visto e considerato chi gli ha consigliato quella persona, quel tecnico, non avevo dubbi che la cosa andava a buon fine, no? Questo se lo posso garantire con Claudio di Sassari. Ma io gli ho detto subito, quando l'ho preso, ho detto avanti Dalbino, ci andiamo assieme, ti accompagno io, ma te lo voglio telefonare prima, io il numero non ce l'avevo, la verità, perché ho cambiato il telefono, adesso ce l'ho, ho cambiato il telefono e quindi non ce l'avevo più. E ho chiamato Massimiliano, ho messo in contatto con Carlo, insomma è andato tutto a buon fine, capito? Però è una persona molto molto capace, modifica anche radio, Carlo, capito? È uscita anche bellina, carina, la usavo quando viaggiavo in macchina da Sassari a Belfuras, ho lavorato con la 48, è uno che si diretta molto bene, la verità, capito? Il lavoro che è stato fatto al mio Galaxy l'ha fatto lui, capito? Però te l'ho detto, non te lo volevo dire, ma l'ha fatto lui e non è fa di quelle cose, l'ha fatto a me proprio come esperimento. Ed è un esperimento riuscitissimo perché il Galaxy c'ha una potenza favolosa, a parte la ricezione che ha, ma l'abbinamento che mi ha fatto, le tarature che mi ha fatto con le sonde sono degli abbinamenti proprio fatti bene e non si toccano. Quello regolare, quello esce, visto la modulazione rimane stabile, dà tutta la sua potenza, capito? L'ha fatto lui, tutto qua. Avanti Antonio. Inserisce un bel alimentatore che può mettere l'idea che vuoi dentro. Anzitutto prendevamo le mascherine da agganciare dentro l'apparecchio, quelle piccoline col finale, adesso non ho più viste, le vendeva l'M, le vendeva le schede, prendeva anche la scheda di Roger Beat, adesso non ho più visto le schede, sono spente la circolazione, scusate, non c'è più niente. Non so, guarda, io ho contato, sono stato col Galaxy e la modulazione che cambia, non ci sono molti discorsi, vediamo un pochino se portatore se c'è ancora, Claudio ci sei? No, evidentemente si è allontanato, forse ora di cena per Claudio, vai Giulio, poi vai per Carlo, io adesso sto andando col Galaxy, la potenza sono circa 80-85 watt modulati, con un ingresso sull'amplificatore a 13,8 volt diretto dalla radio, dall'alimentazione interna della radio, senza essere collegato all'alimentatore esterno, 13,8, perfetto, taratura 3 watt di ingresso sull'amplificatore, tutto fatto a sonda, vai Giulio. Ok, va benissimo Claudio, va benissimo, non c'è che dire, va molto ma molto bene veramente, c'è la propagazione comunque sotto, dai, io adesso mi devo lasciare, mi hanno chiamato, per cui devo scendere. Ciao Claudio, grazie per la chiacchierata, peccato ci siamo sentiti per qualche minuto, ma comunque avremo modo di risentirci più a lungo. Ciao l'altro Claudio di Porto Torres, se sei ancora all'ascolto, ciao Antonello e ciao Carlo, ascolto il vostro finalino e dopo di che chiudo. Avanti Carlo. Ciao Giulio, ce la risentiamo, grazie anche a te della chiacchierata. E vai Antonello. Scusate. Avanti Cla. Vai Cla. E poco qua stavo salutando e mi hai sopraceduto. Va bene, non è successo nulla. Un salutone circolare a tutti, mi hanno chiamato per la cena che è pronta e va bene così. Quindi un buon carico anche a voi quando lo fate. Ci sentiamo alle prossime. Ciao a tutti. Ciao Javier, perdonami, non mi ero accorto, sono stato un po' troppo veloce. Un abbraccio e buona cena. Vai Carlo per i saluti a Claudio e a Giulio. Ciao. Ciao Claudio, ce la risentiamo. Giulio, se non mi hai sentito, di nuovo alle prossimine. Ciao, buona serata. Sì, ho sentito tutti, grazie a voi, dai, ci sentiamo. Buona serata a tutti, buona cena anche quando la farete. Ciao Claudio Porto Torres, se hai qualche difficoltà dimmelo, che poi casomai ti posso mandare addirittura la fotografia della pagina, così direttamente. Ok Claudio Porto Torres. È andato a cena, ma già rientra, non ti preoccupare. Ciao Giù, buona cena anche a te, buon tutto. Sì, è una bellissima radio, ciao Claudio, veramente ottima radio. È uguale, abbiamo lo stesso, la stessa apparecchiatura, o Claudio, uguale identica. Naturalmente io la uso come tu sai, per cui se no potrei fare così anche, ma non è caso, va bene così. Ok, buonasera a tutti, grazie ancora per la chiacchierata. Chiudo, ciao. Ciao, ciao Giulio, buona cena, vai Antonio. Ciao Giulio, buon quedetti, buona cena, buon tutto, ciao Matteo di Polatore, ciao Tazzanzo. Buona cena per tutti e due. Allora Carlo, ma stai combinando di buono, oggi sei di riposo, sì? Sì, Antone, ero di riposo ieri e oggi e domani riprendo di sera, meno male, quindi c'ho domani mattina. Claudio, se vieni a Sassari, se scendi, fatti sentire che ti invito come minimo un caffè. Quando se scendi da Roberto domani mattina, tanto sono a casa, capito? Mandami un messaggio. E niente, io tra un po' devo uscire perché devo andare a prendere mia figlia che se ne sta andando al mare tutte le sere, e quindi o ci sentiamo dalla macchina o ce la risentiamo dopo cena se ci siete d'accordo. Purtroppo mi ha chiamato e devo uscire. Ciao Antonello, ciao Claudio, e se c'è qualcun altro in ascolto, c'è Natalino anche. Ciao Natali, già ci sentiamo più tardi se ci siete. Ciao Carlo, ciao. Poi lunedì. Ciao Carlo, buona cena, buon tutto alle prossime. Vabbè Claudio. Figurati Carlo, dai, se sono a Sassari una mattina ti faccio il colpo di citofono, ci prendiamo un caffettino, ci facciamo le occhiate. Ciao, buona cena, buon tutto, eccetera, eccetera. Avanti, Antonio. Sì, via, positivo, va bene, va bene. Ogni gatto deve oggi blu. C'è una cosa accesa, ma non cambia nulla. Sempre a casa, poi c'è questa umidità fuori, una cosa allucinante oggi, dai, è peggio. Breccate. Avanti Roberto. Ciao Antonello, ciao Claudio, ho sentito a Carlo che se ne stava andando e di sfuggito un secondino a Giulio. C'è qualcun altro, mi sono dimenticato qualcun altro. Togeri, vai. Ho sentito caffettino da Roberto, mi si sono raddrizzate le orecchie. No, Carlo mi ha detto che se scendo a Sassari domani di fare un colpo di telefono e magari andiamo a prenderci un caffè assieme a te, capito? Eia, volentieri, ci mancherebbe. Chi c'è oltre a voi dei due? Antonello, Claudio e poi chi è rimasto? Natalino c'è anche, perché sei così basso? Ogni volta entri e ti dimentichi il processore. No, sono molto lontano dal microfono, ero. Adesso meglio va. No, non stai spingendo. Non sto spingendo, esatto, lo facciamo spingere, guarda adesso se spinge. Se non mi dai il processore io sono abituato a sentirti processato. Eia, processo, in contumacia. Allora, tanto quello là non mi ha ancora chiamato, lei ha dato il numero e ancora non mi ha chiamato. Ma voi che mi interessi? Non mi sono preoccupato più di tanto. Domani quando ci sei lo chiamiamo, se passi. Io lo sai, io tutte le mattine scendo a Sassari, quindi sì, chiamalo perché così mi faccio una chiacchierata, va bene. Avanti Tatalino, Popoma. Vai, piedi bella. Ciao Robert, buonasera. Sempre studiando sta questo Natalino, chiacchia, ma ne sa più degli ingegneri. Natalino ne ha sempre saputo tanto, è che c'è stato un periodo che poteva fare tutto, però mille problemi ha dovuto abbandonare, sennò addirittura ce ne ha già dimenticato. C'è un bel di propagazione oggi da lontano. Ehi, ma noi siamo vicino, quindi usate una frutta. Vai Antonello, comunque Cuocomani, guarda che nella perivella ho messo il gommino, capito? Quindi adesso gommino, perivella con gommino. E quindi non fa più rumore? No, non la si ha più. Adesso si ha perivella con gommino. Comunque mi sa che è meglio che abbassi la voce o la radio, tu sei troppo forte qua. Abbasso la voce, la radio ce l'ho a uno. Se lo abbasso ancora questo tarnere, mamma l'ha detto. quanto stai attento, perché se c'hai tutti i valori molto molto performanti, era tutta malata fatta con la sonda, una chiamata 1, ce l'ho, sto usando 8 più 3B a 1, potenza 85 watt modulati, già va bene così. Avanti Carlo. Ah no, Carlo non c'è più, Antonello Cuomane. E sono così forte questa radio, madonna, adesso mi prendo tutto e mettendo solo questa. Troppo forte per i miei gusti. Mettimi, fammi sentire il 430 o il 140, eh. Aspetta, comodo. Robè, come si chiamava quel log che mi stavi dicendo? Non me lo ricordo, Natale, te lo devo cercare, come si chiama? Quello per i ricostruzioni, che stai dicendo? Io ho l'icona qua, c'è U3, però non ce l'ho aperta adesso, devo guardare come si chiama. V3.31 si chiama questo pezzo io, però me lo devo cercare su come me l'ho salvato nel coso, perché c'è un'icona, c'è una specie di U con un numero 3 come simbolo, l'icona, però non mi ricordo esattamente come si chiama il programma. Ecco il 440. Non vuol dire che è più forte il gas e tira un po' più da mare. Sì, è molto più forte il gas, ma un bel, anche se questa è più bella la modulazione, è molto molto più bella. Se quella là è molto più acuta, no? più penetrante. Si va d'esordio, è come a cacchio, ce l'ho vicino l'altoparlante, è sordo, come stavi facendo. A parte che ce l'ho vicino l'altoparlante a 50 cm, però è un bel forte. Provo a abbassarla magari di un pelino, anziché a 1, metterla a meno di 1. Aspetta che proviamo di nuovo, perché io voglio usare il Galaxy, perché 27 voglio usare il Galaxy. Aspetta, forse c'era Franco, tu sei Franco? Chi è che ha chiamato? Mi sembrava lui il segnale, non ve passa. Franco, sei tu? No, forse mi è sembrato Luca a me. Luca, no, Luca arriva, ma che non sia la veloce, 9.30 arriva Luca, il segnale è torna ai 9, 9.5, mi sembrava Franco di sorso. Allora, vabbè, adesso l'ho abbassato meno di 1, praticamente ce l'ho a mezzo. Prova a abbassare ancora un peluzzino. Se abbasso ancora un peluzzino non esci più. Cosa? Come faccio a abbassare un peluzzino? Vediamo proprio appena appena. Guarda, così, l'ho abbassato ancora appena appena. Ah, va bene anche così, se non volate troppo la voce, perché sennò crepi tutto qua. Ho capito, allora lasciamo stare così, dai, va bene. Sennò, se poi troppo alto è un casino, va bene così? Va bene, Natalino? Yes, andrà bene mera. Ma che microfono è? Là? Il Tame più 3B. Quella è una bestia, per quello che spinge così tanto. Ci ho salvato anche per questa radio, ma non lo uso mai perché tecnicamente non mi piace assai. Il Tame più 3 è più basso. Poi c'è la MB più 5 che va molto bene. Però se mi dici che va bene così, lascio così, dai. Se non scende di più la Sarugussi, prova a metterlo quasi a zero, a vedere. Va, così a zero completamente. No, alza un po'. Così è come era prima. Lascia così, già va bene. Dai. Ok, cosa ti volevo dire? Che avevo detto che cosa, però non mi ricordo. Lasciamo perdere, dai, vediamo se Antonio non è rientrato, se no riprende Natalino. Antonio non è rientrato. Oh, ma Antonio Bombolo, che fine ha fatto? Vabbè che sono stentando poco, ma non l'ho più sentito da tanto. No, stavamo ieri in radio, stavamo chiacchierando. Di mattina c'è sempre quando è al lavoro, tra una pausa e l'altra. La sera, poverino, c'è un bel caldo lì dove abita lui, capito? Magari non ne ha voglia, è stanco. Così qua dentro, io sono attaccato al ventilatore, quello verticale, in questa radio, nella sala radio, e ci sono 31,3 gradi. Adesso sono 30 gradi fuori, 29 gradi fuori, c'ho io, sono uscito poco a far controllare, dentro a casa ne ho 23. È una bomba di tagliata, c'è un isolamento pazzesco. C'è tutto il cavirio e cose, no, qua a me mi scalda quel salone che c'ho io con quelle vetrate, sono vetri grossi ma entra tutto, ti amplifica il coso, poi se apro le finestre sì che circola l'aria, ma non è voglia di uscire fuori, lì in quel posto se entra adesso per me ci sono 50 gradi in quella stanza. Guarda, vabbè, io dormo con la finestra aperta, proiettato dall'arco al cavirio, quindi è praticamente all'interno, la zanzariera abbassata, e ti dico che la mattina intorno alle 4:30, alle 5 mi devo coprire perché c'è freddo. No, no, io la notte sto dormendo con l'aria condizionata accesa, a me ogni tanto la spengo, poi la dovrò accendere perché c'è troppo caldo, a casa mia è troppo presa dal sole d'estate e l'inverno non lo vede neanche, c'è caldo d'estate e freddo d'inverno, e l'orientamento è esattamente al contrario di quanto dovrebbe essere nella posizione ideale, cioè l'appartamento che c'è a fianco a me, di fronte a me, quello sta benissimo, perché lui d'estate il sole lo vede quasi niente, la mattina presto e di sera non lo vede, mentre io dalla mattina alle 10 il sole ce l'ho in pieno fino a quando tramonta. No, no, no, questa d'inverno è calda e c'è un ultimo riscaldamento. E l'estate è fresca, che a volte quando viene gente non a spegnere la condizionata, e dovrà vedere la condizionata tu. Vedi qualche termoconvertore, vedi. No. E riesci l'aria, probabilmente no, è così. È coinventata un bel. Già 10 metri, 12 metri di facciata di corpo, 12 metri di cielo, 20 metri di facciata interna, guarda la distanza che c'è, c'è un metro e mezzo di calvario, ci puoi abitare, cosa è chiaro che è così. Scusate, ho tolto un attimino al telefono, lo prendo subito. Eia, vai con cuore. Eia, altro che con cuore. Devo riuscire a aggiustarmi con la macchina che è un casotto, che la devo usare e purtroppo è un macello. Ma quella fuori dell'acqua sei c'è. E allora, si rasa più di montare, chissà chi su di sotto alla ruta, l'avevi inviata in 5 minuti. Niente lì, è una cassata, però è una rottura di balle allo stesso tempo, perché c'ha, non so se la tua c'ha le viti o c'ha i, quelli a fare incasso, lì ci vuole, perché se li rompi poi li devi mettere tutti nuovi, se ha le viti tu ne togli tutte le viti, poi piano piano la stacchi, tanto è sagomata, non c'è da sbagliare, ma è una rottura di balle, devi sollevare la macchina. Eh sì, adesso lo chiedo a Roberto se me lo fa lui a togliermi quella roba. Cazzo, se no è un macello. Guarda, ti metto d'accordo con Roberto, Roberto c'ha, io so, lo maglierai perché i lavori me ne ha fatti tanti a me, tantissimi. E gli orari che lui può avere sono sempre il venerdì, perché consegnano quasi tutto e poi riprendono normalmente il lunedì e allora di pranzo, capito? Con lo stacco lì, oppure la mattina presto, ti devi mettere d'accordo con lui e te lo fai staccare, ti metti fuori, magari te lo fai staccare da Danilo, ti piace la cosa, poi lui te lo rimette a posto. E infatti, che piazzare quel motorino una cassata, tolto via in casso, mi devi togliere i fili, togliere il vecchio, attaccare i fili e mettere in casso nuovo. E infatti già lo so che non deve essere difficile. No, è come il mio, la mia è Alfa Romeo, quindi Fiat, hai capito, precisamente è tutto quello, sempre quello. Addirittura a me ha avuto culo e ci ha messo pochissimo, perché era Vitti, capito, era Vitti, quindi tolto le viti, incassato e eccetera, capito. Vabbè. Antone, che fine hai fatto? Sei caduto la sedia? Antone l'ha caduto. C'è un'attenzione da lontano, chi è? Non ho capito, stazione? No, non capisco, non capisco, tu lo senti Natali? Stavo parlando con la 50, cosa stavi dicendo, Clark? C'è uno che chiama, ma non capisco cosa sta dicendo, forse è straniero, non lo so. Will you speak Italian, Italian, italiano? No, Italian, allora. No, Italian, neanche sa fatta se non era Italian. Eccomi qua, pareggia rubane, manco useranno mai. Mi si conferma confermando. Veramente a Guido. Devo guardare di ghiscio del quel poliziotto del quel coso Montalbà. Una telefonata per lei personalmente. E beh, allora. Vai, bombo! Riecco, forse ho parlato sopra Natalino, l'ho scavalcato. Scovaccato. E beh, Natalino, riprende. Asco, io devo aggiustarmi sempre quel motorino del che butta l'acqua nel vetro della macchina. Motorino di cosa? dove ci metti l'acqua per il vetro? Dimmi la cosa c'è, cazzo, perché si fa prima trovare una vaschetta, si stacca la vaschetta vecchia e si mette la nuova. No, come abbiamo fatto la mia, lui c'ha il problema di staccare il passaruote, ho detto ti metti d'accordo, magari in un orario come facciamo noi, capito? Le stacchi il passaruote, lui si mette il motorino nuovo e poi le riattacchi il passaruote, perché lui non ci riesce a staccarlo. Ma solo di motorino, perché c'è il motorino nuovo tu, Natale? Ehi, che l'ho preso al ferro vecchio, l'ho preso il motorino, l'ho provato e funziona, capito? Però non so come si toglie il passaruota, non so se ha viti, boh. Non ne ho mai tolto di passaruota, già non me l'avrei fatto io. No, vabbè, non è difficile, ci organizziamo, appena c'è un buco, magari un primo pomeriggio, una cosa che c'è più calma, verso fine settimana, che c'è più calma, adesso nel 3 settimana è sempre un problema. Ma è semplice, ci vuole il chicco, sollevi, un cacciavite a croce, ne esce subito. Però non ho capito, che motorino ti hanno dato a te? Come fai a sapere che dico la macchina? Perché sono andato al ferro vecchio, gli ho detto, e sono andato con la macchina, gliel'ho fatta vedere la macchina qual è. Perché normalmente hanno le vaschette intere, sanno che ti abbiamo dato il motorino così, buh. Io ci domandato il motorino me ne dato. E dimmi per curiosità quanto te l'ha fatto pagare. 10 euro. Vabbè, lo so quanto costa da Automaster, quello che ha fatto novembre, 15 euro nuovo. Figurati, e cosa ne so qui, cosa ne so io. L'elettrato mi ha parlato di 70 euro, per quello sono andato al ferro vecchio. Vabbè dai, se funziona va bene lo stesso, no problem. Vediamo se nel frattempo è entrato qualcuno, se no riprende torre di controllo. Sono diventato croato, stavo facendo i piatti. Cosa hai detto? Non si comprende nulla. Sono diventato, stavo facendo i piatti. Sento tutto, non si capisce niente. Non ho toccato nulla, adesso sono rientrato, aspetta che stavo facendo i piatti. C'è la ventola del coso, per pescarmi la canna, grande, capito? Cappa. Ma questa è la radio di ieri, Antonio, quella che ti stavo ascoltando ieri. Perché ho avuto questo? Sempre quello. L'ho avuto con il 4000. Ma ieri eri con un'altra radio, mi sembra. Eia, il Conex 4000. Adesso già ti so, poco fa non riuscivo a capire quello che stavi dicendo. Vai Claudio. Perché si mangia il microfono lui, non si ricorda, sta usando un K. Non te l'avvicinare la bocca, Antonio. Sta usando il microfono a palmo, capito? Se te l'avvicini molto, strappami. Però se lo tiene normale, a un palmo dalla bocca esce una cannonata col microfono. Ho detto Natalì, lui c'ha quei buchi, capito, fine settimana però, da lunedì al giovedì non devi cercare perché è sempre incasinato. Ma è di venerdì, ti metti d'accordo, poi una mattina presto l'apertura o nello stacco dell'ora di pranzo, e te lo fai staccare, te lo cambi. Gappa gappa. No, io pensavo avessi preso tutta la vaschetta, per quello ho detto 10 euro non fare. Cazzo, solo il motorino costa 15 euro. Io l'avevo preso lo stesso nuovo da lì dove mi aveva mandato Roberto via 4 novembre, addirittura mi aveva dato 13 euro, mi aveva fatto anche lo sconto, nuovo, abbiamo attaccato il vecchio e abbiamo messo il nuovo, capito? Via 4 novembre, gira me lo prendo nuovo, se almeno sono più sicuro, questo già funziona perché l'ho provato. Allora quello ti entro di scorta, vai via 4 novembre, ti ricordo che c'era la UMAS, giusti, le volte di ferramenta, di fronte. Vicino al bar di Mike. Al bar di Mike, no, molto prima. Vicino è, anch'io. Quindi mangiavo veri, sì, un po' prima a sinistra, lui è a destra, tu è a sinistra, sì, c'è un buon negozio, forse c'è anche un bar attaccato, adesso hanno fatto, hai visto Roberto? Infatti l'ho visto, cazzo, ho detto di un sacco di clienti, non so quando stavo lavorando a quel bar, c'è tavolino in fuori, perché sono giovani il proprietario, chi cazzo la fa, ma un bel di gente ci sta andando, da quello di Manicone, ma ormai che Manicone, lo sta vendendo 45.000 euro la licenza, perché c'ha lui la licenza per il coso, tranne le mura, per i tabacchi e i giochi, qualche che si chiama, quelli che ci sono in alotto eccetera, 45.000 euro trattabili. Ma è molto ci vale, quello bisogna entrare con la ruspa a buttarne tutto, è 40 anni che non ho mai fatto niente, sempre così come l'ho conosciuto io, non ho mai lavorato, un periodo si lavorava, poi non ha più lavorato, è chiaro che la gente va lì perché almeno è pulito, tutto lì, ecco lì, lì, già lo vedi Natali, tu passi avanti a Fosaro, attraversi l'incrocio di via Catalocchino, 20 metri a sinistra c'è l'insegna, autoricambi, capito, lì, e te lo compari di nuovo, e quello te lo tieni di scorta. Io farò così, me lo prendo nuovo. Ciao Simone, la pompetta come la 500, te l'aveva ricordata la pompetta che schiacciavi? Ehi, quello struzzino, come quella che c'è a Marcello. Come quella che c'è a Marcello, lo struzzino ha la depressione che schiacci, tappa. Quando si rompe quella a fare a schiacciare soffi. O se era Natali, non c'era un clistere in casa. Eia, si attacca il clistere. Se voglio clistere, un po' di roba lente, ci metti un po' di shampoo, poi c'è anche detersivo e ti spruisce tutto quanto. Rivemmo lo clistere, rivemmo, ma lo vedo. E comunque quello funziona, mi roba, tu stai scherzando, se gli attacchi la pompetta diretta, quella che arriva, per esempio quella della 500, no? Che arriva la pompetta, c'è quello a fare che praticamente manda aria, invece di quella a fare gli metti un clistino di quelli piccoli, allora tu bomba. Oppure una siringa si può punirmi, non ce l'hai tu siringa in realtà. No, siringa è un aggio. E si hanno in farmacia, me la compare giù una di siringone baccavanti. Eia, ok, vediamo se Antonello ci racconta qualcosa. Avanti Antonello, c'è che la pappiata la ne bussa a fare Antonello. Antonello sì che è un uomo di casa. Antonello, mica non si vede il detersivo, non è che hai visto di sciuma, pensi che sia birra lì. No, non sto bevendo la birra, sto bevendo la birra perché mi sciumo tutto. Col caso del vero, non sarà. Cioè, mi sembra che già avete mezzo di acqua. Che io oggi solo acqua, ci aveva fatto l'aperitivo con mia figlia, e buh. Solo acqua, troppo caldo c'è, troppo. Ma che ore sono? Cazzo le 8:30, raga, io vi saluto per la cenare. Dai, baci e abbracci a tutti se ci siete a dopo, se no alle prossime, ok? Ciao! Anche io ho l'occasione per mangiare qualcosa, vai, se c'è qualcuno ci sentiamo dopo. Ciao Claudio, Natalino, Antonello e SWL in ascolto. Ciao ciao a tutti. Ciao a tutti, anch'io me la chiudo. Ciao a tutti, buon quello allora, ci sentiamo alle prossime. Buonasera, a chi non l'ha fatto? Io ho già cenato, la faccia tua, così impari. E Marcolino Condor non è entrato. No, per niente. Io ho cenato cetrioli stasera. Ho mangiato un cetriolo fresco. Non ho voluto mangiare altro, perché mi sono mangiato una pentola di sardine stamattina, adesso ne ho un'altra la pentola di mattina. Io ho già fatto col sugo. Domani a pranzo me li mangio, ce l'ho già pronte. Così non sto a fumicarmi come stamattina, quasi 2 ore e mezzo per attaccare ai fornelli, aggiungendo l'acqua un pochettino ogni tanto, per non bruciarsi la pentola. Ok, dai. Vabbè Antone, io me la chiudo, ci sentiamo alle prossime, dai. D'accordo, ciao alle prossime, ciao.